Va bene, allora diamo il benvenuto a Chiara Mori. Lei, io ho detto, magari ti farebbe piacere sapere sì, i nomi dei tuoi alunni giovani. Sì, volentieri. Sì, ecco, scolaresca. E di dove vengono. E... Hai trovato un posto, Sergio? Sì, metto in cima. È qui Franca, non è che maschi. Allora incominciamo da Dario. Anzi, da Riviera. Io sono. Da Lorenzina. Lorenzina. Allora, io sono Lorenzina, sono la sorella di Caterina che stava lì. Ok. Veniamo da Carmagnola. Bene. Molto piacere. Io sono Adriana. Gran bel posto. Cuneo. Piacere. Cuneo. Dario da Cuneo. Molto piacere. Liliana da Villanova. Villanova Mondovì. Sì, molto piacere. Adriana da Modone. Rosanna e Carlo da Borgo. Borgo San Davide. Sì, sì, sì. Zì di Cristiano. Sì. Edda da La Morra. Sì. Sì, sì, sì, sì. Io sono Bruna da Cuneo. Molto piacere. Io sono Anna, vengo da Torino, ma sono originaria di Cuneo. Grazie. Io sono Caterina, sorella di Lorenzina, basta. Luciana da Torino. Molto piacere. Franca da Villa Arbasse. E dov'è? Lontano Rivoli. Vicino a Rivoli, ok. Oh mamma mia. O poi magari non conosci tuo marito, che sarebbe sì, quel signore sì, lì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io sono Dommeo della diocesi di Modovì. Adesso sono ancora per un po' di tempo qua. Peveragnese, poi me ne ritornerò per un altro tempo in Brasile. Ah, ma torno di Maria? Ma guarda. Allora vengo qui con te, va? Sì, sì, solo ci mancherebbe il permesso del vescovo. Ma io sono Castelpuro. Va bene, allora così sappiamo un po' qualcosa di noi. Chiara ci ha detto di darvi questo sì, testo. Io ho preparato una lezione in cui nella prima parte c'è uno scorcio, ma proprio uno scorcio sull'Antico Testamento. Poi, più in generale, il Regno di Dio nel Vangelo di Marco. Io devo guardarti in faccia. E dopo ho preparato una piccola esegesi di 2-3 branetti, ma proprio corti. Allora, per sapere più o meno... Sono testi che secondo me conoscete tutti a memoria, però per rinfrescare un attimo il ricordo avevo preparato questi tre testi qui, che sono quelli che più o meno, su cui più o meno cado, diciamo. Io non so cosa avete fatto stamattina, però più o meno cado su questi testi qui. Se qualcuno me li legge mi farebbe un grande favore. Poi, qualcuno di voi ha una Bibbia? Sì. Intera? Ok, se mai dopo chiedo la cortesia a qualcuno di chiedere di leggere un paio di versetti che mi servono dell'Antico Testamento. Ok, qualcuno che legge questo, prego. È tutto? Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, Marco 1,14-15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Poi Marco 4,1,13. Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e la restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo, ma quando si levò il sole, restò bruciata e non avendo radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine. Le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. e un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe e rese ora il 30, ora il 60, ora il 100 per uno. E diceva, chi ha orecchi per intendere, intenda. Quando poi fu solo, i suoi insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole ed egli disse loro, a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Continuò dicendo loro, se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Marco 4, 26, 32. Diceva, il regno di Dio è come l'uomo che getta il seme nella terra, dorme o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo spelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa, che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Ok, grazie mille. Allora, innanzitutto una premessa bisogna fare. Si parla di regno di Dio anche nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento si dice che Yahweh instaurerà il suo regno alla fine dei tempi per mezzo del suo Cristo. Qui Cristo vuol dire ancora semplicemente Messia. Quindi vuol dire che nell'Antico Testamento si dice che Yahweh instaurerà il suo regno alla fine dei tempi per mezzo del suo Messia, che in greco si dice Cristo. Quindi questa tematica del regno di Dio nell'Antico Testamento si dice che abbia un orientamento messianico, cioè rivolto all'avvento del Messia, ed escatologico, cioè rivolto agli ultimi tempi. L'espressione poi regno di Dio, questo un pochino per come traccia per seguire il discorso, significa semplicemente Dio regna, non vuol dire altro. Regno di Dio significa Dio regna. Né più e né meno. Che cosa però immaginavano i contemporanei di Gesù? I contemporanei di Gesù, sull'onda anche dell'Antico Testamento, immaginavano la futura azione salvifica di Dio in funzione della sua onnipotenza. Attenzione, loro pensavano questo. Aveva l'Antico Testamento, come ho detto, aveva un orientamento messianico, cioè rivolto all'avvento del Messia, un orientamento escatologico rispetto alla tematica del regno di Dio, cioè rivolto agli ultimi tempi. In più pensavano i contemporanei di Gesù che Dio avrebbe instaurato sì il suo regno, però questo regno sarebbe stato una irruzione inarrestabile della sua potenza, sarebbe stata una irruzione della potenza di Dio nel nostro mondo, che avrebbe distrutto il male e gli empi e avrebbe creato un mondo di giusti. Questa era un po' la concezione dei contemporanei di Gesù, sull'onda chiaramente anche dell'Antico Testamento. La concezione che Gesù porta è un po' diversa da questa. In generale, nel Nuovo Testamento Gesù parte da una premessa diversa, perché il Dio che incomincia a regnare è un Dio che è padre, innanzitutto. E l'irruzione del suo regno non è finalizzata alla instaurazione della sua potenza, a far vedere che lui è potente, alla distruzione del male e degli empi, ma è finalizzata a rivelarsi come padre. Quindi nel Nuovo Testamento l'irruzione del regno di Dio, e questo è il messaggio di Gesù, è finalizzato all'instaurarsi di un regno che è il regno di un padre. Però si dice che il termine padre è un termine correlativo. Cosa vuol dire? Uno è padre se ha un figlio. Cioè, il termine padre fa riferimento logicamente al termine figlio. E allora, se Dio vuole instaurare il suo regno, ha bisogno di creare un mondo di figli, altrimenti lui non è padre. Cioè, un padre ha bisogno in qualche modo di figli, una madre per essere tale ha bisogno di figli, che altrimenti non, il concetto non sussiste. Quindi l'annuncio che Gesù fa è quello di un regno nel quale Dio si dimostra padre, e in questo regno può sussistere solamente se insieme al padre ci sono anche i figli. E per essere figli in questo regno bisogna chiaramente accettare la salvezza da lui portata. Altrimenti, cioè, Dio non ci impone di entrare nel suo regno. Possiamo entrare oppure no. Possiamo entrare nel momento in cui accettiamo il dono che lui ci offre. Questa è un pochino la premessa. Quindi vedete com'è, è diverso la tematica del regno nell'Antico Testamento e come invece è nel Nuovo. C'è un po' di sbilanciamento. Poi anche sono diverse le aspettative che avevano all'epoca e poi quella che in realtà fu l'annuncio di Gesù. Allora, nel Vangelo di Marco che cosa succede? Allora, come voi avete letto questo testo, 1 Marco 14, 15. Allora, se avete un Vangelo semplicissimo, se voi andate a guardare dov'è, vedete che è proprio all'inizio del Vangelo di Marco, sono proprio le primissime pagine del suo Vangelo. Per Marco l'annuncio dell'approssimarsi e dell'avvicinarsi del regno è fatto da Gesù nel contesto dell'inizio del suo ministero, perché queste sono le prime parole che Gesù dice nel suo Vangelo. E quindi lui inizia, qua c'è scritto, predicando il Vangelo di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio. Il Vangelo di Dio in che cosa consiste? Consiste nella frase che sta sotto: il tempo compiuto e il regno di Dio è vicino. Poi c'è: convertitevi e credete al Vangelo. Quindi l'inizio dell'annuncio del profeta di Nazareth è strettamente collegato all'avvicinarsi, all'approssimarsi del regno. L'annuncio del regno di Dio è l'oggetto principale della sua intera predicazione, perché Gesù che cosa annuncia? Gesù annuncia l'instaurarsi del regno di Dio. In questo modo lui cosa fa? Richiama l'attenzione dei suoi editori, di coloro che l'ascoltano, sulla inaugurazione della fase finale della storia, perché anche per lui l'inaugurazione del regno di Dio implicava che la fase finale della storia era iniziata. Salve. Con l'avvicinarsi del regno di Dio la fase finale della storia inizia, e il tempo dell'attesa, salve, il tempo dell'attesa si è compiuto. Come c'è scritto lì, il tempo è compiuto, cioè il tempo dell'attesa è finito. Il regno di Dio si è avvicinato. Con la fine del tempo dell'attesa e l'inizio dell'instaurarsi del regno, che cosa comincia? Comincia la progressiva irruzione nel tempo storico del regno di Dio. Quando sarà instaurato definitivamente il regno di Dio? Con il giudizio ultimo. Lì il regno di Dio, con il giudizio finale, arriverà alla sua completezza. Se il tempo della fine è già iniziato, ma dovete pensare che il tempo della fine non è un istante, ma un tempo lunghissimo, il tempo della fine, perché loro concepivano che l'instaurarsi del regno ha un inizio, ha poi un proseguimento nell'arco del tempo e dopodiché ha una fine. Il tempo della fine per loro non è un momento, per il Vangelo di Marco nemmeno è un momento, ma è un tempo molto lungo. Allora, se il tempo della fine è iniziato, cioè la fase finale della storia della salvezza è iniziata, ma per fase finale dovete pensare sempre a qualcosa di molto lungo, non fase finale vuol dire che è iniziato quel processo che poi porterà alla fine vera e propria. Allora, se noi siamo nella fase finale della storia della salvezza, questo dall'altro lato ha un risvolto molto positivo, perché significa che il regno di Dio è presente. Inizia, il tempo dell'attesa è finito, il tempo della fine è iniziato, con questo passaggio è iniziata la fase finale della storia della salvezza e questo significa anche che il regno di Dio è presente. Come è presente? È presente in Gesù stesso, nella sua predicazione e nelle sue opere. Qua bisogna fare una precisazione, perché io vi ho detto finora che Gesù predica il regno di Dio e il suo avvicinarsi, ma talvolta, anche nel Vangelo di Marco, il regno di Dio è identificato con Gesù stesso. Quindi Gesù annuncia il regno di Dio, annuncia la fase finale della storia, l'instaurarsi del regno di Dio, ma attenti, l'altra faccia della medaglia, perché il regno di Dio viene identificato in maniera dinamica con lui stesso, con la sua persona e le sue opere. Sono due aspetti dell'annuncio del regno di Dio nel Vangelo di Marco. Gesù annuncia il regno di Dio, ma lui stesso, con le sue opere, il suo annuncio, è il regno di Dio, dall'altra parte. Da una parte, quindi, la sua azione è completamente a servizio del regno e lui funge da araldo del regno di Dio, proclamandolo. Dall'altro, è l'inviato che compie nella sua persona il regno di Dio. Da un lato lui è l'araldo del regno di Dio, lo proclama con la sua parola, dall'altro lato è l'inviato che lo compie nella sua persona. Per questo, proprio perché lui personifica il regno, che cosa accade? Accade che il regno non è solo, il regno di Dio non è solo una teoria o un progetto, ma una persona. Quindi nel momento in cui Gesù incarna in se stesso il regno di Dio, significa che il regno di Dio non è un progetto, non è una teoria, ok? Ma è una persona, e accoglierla significa accogliere il regno di Dio. Perché essendo il regno di Dio una persona stessa, se io accolgo Gesù, con lui accolgo il regno. Ci siamo? Abbastanza chiaro fin qua? Però Gesù mostra il regno anche con la sua parola, ma soprattutto con le sue opere. Le opere di Gesù hanno un carattere cristologico, perché chiaramente dimostrano chi è il Cristo, mostrano meglio che è il Cristo, cioè lui stesso, in quanto Messia, ma hanno anche un carattere escatologico, cioè rivelano il regno di Dio. Quindi le sue opere hanno un carattere cristologico perché rivelano la sua persona, ma hanno anche un carattere escatologico perché rivelano che cosa è il regno. Egli, ad esempio, quali sono le opere che Gesù fa per mostrare il regno? Soprattutto nei primi due capitoli del Vangelo di Marco, poi anche nel resto del Vangelo, ma basta soffermarsi sui primi due capitoli del Vangelo di Marco, noi troviamo alcuni passaggi significativi, alcune opere da lui compiute che ci mostrano in che cosa consiste il regno. Ad esempio, provate a leggermi qualcuno che ha un Vangelo, Marco, ve lo dico, 1:21-28. Qualcuno ha un Vangelo? Marco 1, 21, 28. Sì. Andarono a Cafarno, questo? Sì, sì, sì. Andarono a Cafarno e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Che è mai questo? Una dottrina nuova, con autorità? Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Vedete, egli insegna nelle sinagoghe con autorità. Ed è un insegnamento che si contrappone alla dottrina degli scribi e dei farisei e che suscita l'ammirazione delle folle, perché c'è scritto: tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Cioè si chiedono chi lui sia, chi è costui. Anche in altri passaggi del Vangelo di Marco ricorre questa ammirazione del popolo. E perché Marco evidenzia l'ammirazione diffusa nel popolo? Per invitare chi legge a porsi grandi domande. Allora, Marco descrive in questo passaggio, ma anche in altri, l'ammirazione per l'insegnamento di Gesù da parte del popolo. Ma di riflesso, questa ammirazione del popolo invita chi legge, cioè noi lettori, a porci la domanda: chi è costui? Che cosa significa ciò che compie? L'ammirazione, poi, è spesso un passo previo alla fede. Quindi, prima caratteristica della prima caratteristica del regno di Dio che ci vuole mostrare è appunto il fatto che il regno di Dio implica un insegnamento che suscita ammirazione, un insegnamento che è diverso, è una verità, un insegnamento che è diverso da quello dei scribi e dei farisei. Prima elemento che troviamo. Poi sapete, se poi noi andassimo sotto, continuassimo a leggere, trovate il brano della guarigione della suocera di Pietro. Ma anche qui avete visto l'indemoniato. Un altro gesto che Gesù compie per mostrare il regno è la guarigione dei malati. Se andate sempre avanti in questo capitolo, trovate il perdono dei peccati o la chiamata di Levi e Gesù che mangia con i peccatori. Quindi, quali sono i segni con cui e i gesti con cui Gesù mostra il regno di Dio nel Vangelo di Marco, anche in questi primissimi capitoli? L'insegnamento che suscita ammirazione, tanto era diverso da quello degli scribi e dei farisei. Poi la guarigione dei malati, il perdono dei peccatori, veniva invitato a mangiare con i peccatori e lo faceva. Invitava i peccatori stessi a seguirlo, perché qui c'è la chiamata di Levi, quello che negli altri Vangeli è chiamato Matteo. Gesù quindi non proclama il fuoco divino per i peccatori, ma offre a loro il perdono. Perché offre a loro il perdono, offre agli uomini il perdono? Perché affinché il regno di Dio sia popolato da figli che riconoscono in Dio un padre, è necessario che il cuore dell'uomo sia trasformato, è necessario che il cuore dell'uomo accolga da parte di Dio il perdono. Quindi siccome tutti gli uomini sono peccatori, l'azione divina deve innanzitutto manifestarsi nel perdono dei peccati, perché solo attraverso la trasformazione del cuore degli uomini Dio può creare dei figli che lo riconoscono come padre e dei figli che si riconoscono come fratelli. Vedete poi che Gesù fa dei gesti un pochino diversi, cioè insegna, parla, poi offre il perdono, però non dimentica di guarire le persone anche dal punto di vista fisico, non solo dal punto di vista spirituale. La salvezza che Gesù offre per entrare a far parte del regno non è una salvezza che coinvolge unicamente, non so, l'insegnamento, la conoscenza, lo spirito, ma che coinvolge e trasforma tutta la persona. La salvezza che Gesù offre per entrare nel regno di Dio è una salvezza che trasforma tutta la persona, in tutte le sue componenti, non solo in alcune. Altro qua, tutto chiaro fin qua? Posto? Okay. Ditemi pure se non va bene qualcosa, fatemi dei segnali di fumo che va benissimo. La realtà del regno poi è spiegata in modo particolare nelle parabole del capitolo 4, che sono quelle che abbiamo letto. Lì nel capitolo 4 di Marco viene spiegata attraverso parabole la realtà del regno. Attenzione che però queste parabole sono scure per gli increduli, ma vengono spiegate ai discepoli. Se per caso vi è saltato l'occhio su quella versetti che prima abbiamo letto, 4:11, a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, che non è altro che la sua natura, eh? A quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, e qua c'è una citazione dell'Antico Testamento, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Non è che Dio vuole che qualcuno rifiuti il regno di Dio, non va inteso in questa maniera qua. Più che altro questa è la testimonianza dello stupore della comunità di Marco, comunque delle comunità delle origini, di fronte al rifiuto dell'annuncio cristiano. Loro cercano di spiegarsi come mai l'annuncio del Vangelo non viene accolto, ma viene rifiutato. E la risposta che loro danno è proprio questa, che alcuni accolgono il regno di Dio, altri lo rifiutano. E proprio il rifiuto è all'origine del loro non vedere, non ascoltare, non intendere. Ci siamo? Quindi Marco mostra il regno di Dio con similitudini che per chi crede, cioè per i discepoli, sono chiare. Per gli increduli, proprio perché partono da un rifiuto, diventano oscure. La prima parabola che abbiamo letto è una parabola notissima, che poi io ho saltato poi la spiegazione, perché poi nei versetti da 13 in poi c'è anche la spiegazione, che è una spiegazione notissima, cioè ogni terreno rappresenta una modalità di rifiuto o di accoglienza parziale dell'annuncio del regno. La prima parabola, quella del seme, è quella nella quale il seme cade in differenti terreni e può essere compresa, come vi dicevo, come se a ogni luogo in cui cade la parola, cade il seme, corrispondesse una differente classe di uditori. Ad ogni terreno, situazione, diciamo, rovi, spine, eccetera, eccetera, corrisponde una differente classe di uditori. Poi ci sono due parabole seguenti, quelle che troviamo nei versetti da 26 a 32, in realtà sono due le parabole dentro lì, sono due piccolissime parabole. È illustrato il regno di Dio nella sua dinamica, ma che corrisponde a due modalità differenti. La prima illustra una crescita spontanea, questo seme che cresce, viene seminato, il contadino può dormire beatamente o stare sveglio, che tanto è lo stesso, perché il seme cresce spontaneamente, c'è scritto in greco in automatico, automate, cioè in automatico cresce il seme. Quindi la prima parabolina mostra la crescita spontanea del seme, che è poi, e della pianta, che è poi il regno di Dio. Nella seconda parabolina, invece, trovate la straordinaria espansione di questa realtà divina, che è il regno di Dio, che prima è piccolissima, perché corrisponde al seme della senape, poi diventa un albero estremamente grande. Quindi se la prima parabolina mostra la crescita spontanea del regno di Dio, l'altra parabola mostra invece la crescita straordinaria, da un inizio insignificante, perché il seme di senape è grande un millimetro. Che cosa poi ci dicono queste due parabole? Che da un lato il seme contiene una forza divina intrinseca e si sviluppa da solo. Il contadino può pure dormire, che tanto quello cresce da solo. Quindi questo ci dimostra come il regno di Dio abbia in sé una forza intrinseca e si sviluppi da solo, indipendentemente dagli uomini. Dall'altro lato, vedete che il regno di Dio, da un inizio insignificante, cresce in maniera straordinaria, suscitando ammirazione. Queste tre parabole, vedete che hanno a che fare con i semi. Sono tutte e tre che hanno a che fare con semi. Che cos'è il seme? Il seme è la parola di Dio. E il regno di Dio si identifica appunto con la parola, in questo capitolo. Il regno di Dio in queste tre parabole si identifica con la parola del Vangelo. Una parola che è portatrice di salvezza, ed è la prima parabola. La prima parabola, il seme della parola cade in differenti terreni. Per qualcuno porta la salvezza, altri scelgono di non accoglierla. Quindi questo seme, parola di Dio, che cade in differenti terreni, è lo stesso regno di Dio. Nella seconda parabola, il seme, regno di Dio, che è poi il seme della parola, cresce in maniera misteriosa. Nella terza parabola, la terza parabola, manifesta in maniera paradossale la potenza di Dio. Per quanti l'accolgono, il seme, parola di Dio, regno, cresce in maniera straordinaria in virtù della potenza di Dio, solo chiaramente per chi l'accoglie. Ancora, in un altro testo che conoscete benissimo, quello nel quale Gesù paragona l'accoglienza della parola all'atteggiamento dei bambini, Marco ci dice che il regno di Dio deve essere accolto con l'umiltà e la semplicità dei bambini, essendo essenzialmente dono. Quindi il regno di Dio è innanzitutto un dono che va accolto con l'umiltà e la semplicità dei bambini. Accogliendo in questo modo, con umiltà e semplicità, il Vangelo, l'uomo che cosa accoglie? Accoglie in sé l'azione salvifica della parola. E se l'uomo accoglie in sé l'azione salvifica della parola, le permette di portare frutti nel suo cuore. Ma come crescono come cresce nell'uomo il frutto del Vangelo? In una maniera che l'uomo stesso non sa, ma cresce. È sempre la piccola parabolina che dice che il seme cresce misteriosamente. Anche la parola di Dio seminata nel cuore dell'uomo cresce quasi indipendentemente dall'uomo per forza propria, per virtù propria. Anche l'uomo è pervaso dalla forza straordinaria della parola e del seme della parola di Dio, perché se l'uomo accoglie in sé la parola di Dio come seme della senapa, anche se che è grande un millimetro, questo seme di un millimetro crescerà nel suo cuore in maniera straordinaria. Quindi vedete che le parabole si possono applicare al regno, ma essendo la parola stessa il regno di Dio, si possono poi paragonare anche all'accoglienza della parola nel cuore stesso dell'uomo. Riuscite a tessere il filo? il seme, la parola di Dio. La parola di Dio è il regno può essere accolto nel cuore dell'uomo, e il terreno è anche il cuore stesso dell'uomo, e quindi ciò che è della pianta può essere anche detto all'interno del cuore dell'uomo. Il seme della parola cresce misteriosamente e straordinariamente anche nel cuore dell'uomo. In sintesi, Marco considera il regno di Dio non solo come una realtà escatologica futura, cioè in pratica non è che riguarda solo la vita eterna, non è quello il suo obiettivo, ma lo ritiene già inaugurato in questo mondo con la predicazione e l'opera del Messia, con la predicazione del Messia. Abbiamo letto prima che il primo annuncio di Gesù è: il tempo di Dio è compiuto e il regno di Dio è vicino. Quindi il regno di Dio è presente già ora nella predicazione, nell'annuncio del Cristo, ma è anche presente nella sua opera salvifica, una opera salvifica che coinvolge l'intera persona, perché è un insegnamento, è il perdono dei peccati, ma è anche la guarigione. Il regno di Dio è già presente, e come avviene per il seme della parola, può essere accolto o rigettato anche il regno. Il regno di Dio è quindi un'entità salvifica che è contemporaneamente presente e anche futura. È la costante azione salvifica del Signore per i credenti, ma attenzione, è l'azione salvifica di Dio per i credenti, ma siccome si chiama regno di Dio, sarà Dio stesso a realizzarlo. Perché il regno di Dio vuol dire anche che è Dio che lo realizza, forse ogni tanto non ci pensiamo. Quindi il regno di Dio è una realtà salvifica offerta all'uomo, è una realtà presente, ma è anche regno di Dio, cioè è Lui che la mette in opera. Il Vangelo proclamato da Gesù contiene in germe il regno. Con Lui il regno fa irruzione sulla terra. E comincia ad essere presente dove? Nel cuore degli uomini che lo accolgono. Perché il regno di Dio è parola ed è innanzitutto presente nel cuore degli uomini che lo accolgono. Nel momento in cui gli uomini accolgono il regno di Dio nel loro cuore, gli permettono di agire. Proprio permettono a Dio di agire in quanto è il regno di Dio. E permettono a Dio di salvarli, permettono a Dio di far crescere la sua opera in loro misteriosamente e straordinariamente, e permettono anche a Dio di salvarli. Come un seme, il regno di Dio si sviluppa e cresce, ma la piena maturazione e manifestazione di questo germe avverrà ovviamente solo alla fine dei tempi. Noi siamo ancora in mezzo nella crescita misteriosa e anche straordinaria, noi siamo ancora lì. L'Eucaristia dove si colloca? Si colloca proprio, è proprio il segno del regno di Dio, perché proprio l'Eucaristia ha in sé anche questa connotazione proprio del regno. Il regno è presente, il regno è futuro. L'Eucaristia si colloca tra presente e futuro. È segno del regno del presente, ma è anche garanzia del regno futuro. Anche l'Eucaristia ha la stessa dinamica presenza che poi annuncia un futuro che è anche tipico del regno di Dio. Questa era proprio la carrellata sul regno di Dio nel Vangelo di Marco. Proviamo adesso a guardare un pochino più approfonditamente alcuni testi che vi ho lasciato. Allora, prima vi faccio i due versetti di Marco 1, 14, 15. E poi vi faccio le due paraboline finali, perché anche l'altro testo è famosissimo, commentatissimo. Allora, c'è scritto: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò in Galilea. La notizia dell'arresto di Giovanni Battista induce Gesù ad andare in Galilea per annunziare il Vangelo. Questa frase che sembra tanto normale, a me normale non sembra, perché Giovanni fu arrestato, solo che dell'arresto di Giovanni non si parla in questo inizio del capitolo di Marco, si parla nel capitolo 6. Se voi andate nel capitolo 6, il famoso testo dell'arresto di Giovanni Battista, e si narra poi la sua morte, sta al capitolo 6. Quindi questa sarebbe un'anticipazione, l'arresto di Giovanni Battista, di un fatto che verrà poi spiegato più avanti, cioè 6 capitoli dopo. Perché poi Gesù debba andare in Galilea perché hanno arrestato Giovanni Battista, non è spiegato. Non c'è scritto perché Gesù vada in Galilea perché hanno arrestato Giovanni Battista. C'è mica spiegato perché. Gesù è un dato di fatto, Gesù va in Galilea. E da questo momento inizia ad annunciare il Vangelo. Vangelo sapete che vuol dire buona notizia, buon annuncio. Gesù da questo momento diventa il soggetto attivo dell'annuncio, perché c'è scritto Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio, quindi è soggetto dell'annuncio. Siete, è lui che compie l'annuncio, che fa l'annuncio, però dall'altro lato è anche il protagonista della narrazione, perché il protagonista è lui. Quindi dall'altro è colui che annuncia il Vangelo, dall'altro lato è anche il protagonista della narrazione. La traduzione di questo testo, lei prima leggendolo non ha fatto un errore, l'ha letto giusto. Lui l'ha prima detto, convertitevi e credete nel Vangelo. No, non è un errore quello lì. Ci ho fatto caso, ho detto, vabbè, l'ha detto giusto. Traduzione giusta sarebbe questa. Il tempo propizio si è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino, cambiate mentalità e ancoratevi nel Vangelo. Allora, il tempo propizio si è compiuto, questa è la traduzione, il regno di Dio si è fatto vicino, cambiate mentalità e ancoratevi nel Vangelo. Vedete che la prima parte della frase indica l'azione di Dio. Il tempo propizio si è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino. Questa è l'azione di Dio. La seconda parte indica la risposta dell'uomo. Cambiate mentalità e ancoratevi nel Vangelo. Me l'avranno spiegato 100 volte. Qua tempo non è il Cronos, questo, perché i greci distinguevano tra Cronos e Kairos. Cronos è questo, tempo cronologico, il cronografo, questo qua, cioè il tempo che proprio si conta. Kairos è il tempo opportuno, il tempo propizio. Qua c'è scritto il tempo propizio si è compiuto, cioè dovete pensare con una bacinella d'acqua che a un certo punto a forza di riempirsi, il tempo è come maturato, è come un frutto che matura, o come una bacinella d'acqua che si riempie. A un certo punto è diventata piena e tra l'acqua tracima fuori. Quello è il tempo che si è compiuto. Vuol dire che il tempo giusto è giunto, il tempo corretto per il regno di Dio è giunto, perché anche il tempo nella logica proprio che sottende a questo termine Kairos è come qualcosa che matura. Per noi non abbiamo tanto questa idea, perché un'ora è uguale all'altra, sono 60 minuti e 60 minuti, quello è il tempo cronologico. No, qua è diverso, perché è come ci fosse una maturazione, come se un frutto che matura, e quindi un momento non è uguale all'altro, perché un momento potrebbe essere indicare una tempistica in cui è meno opportuna, il tempo successivo potrebbe indicare un tempo più opportuno, più maturo, più consono. Ci siamo? Allora, il tempo propizio si è compiuto, vuol dire si è riempito, il verbo indica qualcosa che si riempie, che si colma, proprio come una bacinella d'acqua. Il regno di Dio si è fatto vicino, o meglio, si è avvicinato. Il regno di Dio si è avvicinato allora, ma adesso è più vicino di allora, perché il regno di Dio continua ad avvicinarsi ed è un movimento che non è ancora giunto al termine. costantemente il regno di Dio si avvicina. Ed è un movimento che non è ancora giunto al termine. Questa è l'azione di Dio. Il tempo è maturato e in questa maturazione del tempo il regno di Dio si è progressivamente avvicinato. Ma attenti, perché adesso paradossalmente è più vicino che non 2000 anni fa. Poi il testo dice: cambiate mentalità e ancoratevi. Sono due imperativi, cioè sono due comandi. Cambiate mentalità e ancoratevi. Però c'è scritto ancoratevi nel Vangelo. Proprio mettetela ancora dentro, in un certo senso. Poi questo lei non lo può sapere. Però l'espressione nel Vangelo è rarissima. C'è solo qua. Ancorarsi nel Vangelo, rispolverate la vecchia grammatica, sarebbe un complemento di stato in luogo. Cioè, ad esempio, io sono a casa. A casa sarebbe il complemento di stato in luogo. Cioè, dove io sono fermo. Ancorarsi nel Vangelo, quel nel Vangelo lì, è un complemento di stato in luogo. Dove io sto. Ed è l'unico caso in tutti i Vangeli. Non c'è nessun altro parallelo. Quindi vuol dire mettere l'ancora proprio all'interno del Vangelo e non muoverla, perché stato in luogo significa che sta lì e non si muove. Il Vangelo, come vi dicevo, è compiuto da Gesù, perché l'annuncio della buona notizia è da lui fatto, però dall'altra parte il Vangelo è lui. C'è sempre questa ambivalenza, soprattutto in queste prime pagine di Vangelo di Marco. Poi, se andiamo avanti, c'è scritto: si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: la buona notizia è la realizzazione del regno. Allora, lui va in Galilea e cosa fa? Predica il Vangelo di Dio, c'è scritto nel versetto 14. E che cosa diceva? Diceva che la buona notizia è la realizzazione del regno. Questo era il suo annuncio. Quando lui va in Galilea, che cosa dice? Dice che il regno di Dio è vicino, è presente, ma che la sua realizzazione non è completa. Questo è proprio il primo annuncio che Gesù fa, la buona notizia che lui porta. Perché spesso noi diciamo il Vangelo, la buona notizia, la buona annuncio, però non specifichiamo in cosa consiste questo buon annuncio. Il buon annuncio è che il regno di Dio è presente e che la sua realizzazione non è completa. Che cosa manca alla sua realizzazione? Manchiamo noi, quella faccenda. Le altre due paraboline. Dovete tenere presente che è uno sforzo vano andare a cercare nel Vangelo di Marco una definizione del regno di Dio o una definizione della sua dinamica. È un po' uno sforzo inutile, non andate a cercarlo, perché non c'è la definizione del regno di Dio o la definizione della sua dinamica o della sua logica. Non c'è, perché Marco presenta il regno di Dio spesso attraverso una storia in cui ci sono azioni, ci sono personaggi che si muovono. Non c'è una definizione chiara del regno di Dio, perché lui preferisce evocare questa realtà attraverso una storia in cui ci sono azioni, ci sono dei personaggi che si muovono. Ci siete? Allora, ad esempio, anche queste due paraboline sono proprio fatte in questa maniera, cioè l'evangelista non ci dice com'è il regno di Dio, non ci dice con quale dinamica si muove, ma ci porge due piccole storie nel quale ci sono dei protagonisti che agiscono e si muovono. Allora, dovete pensare in un'altra cosa, che i versetti da 26 a 27, da 26 scusate a 29, che è la prima parabolina, sono un testo proprio di Marco, cioè non andate a cercarli in nessun altro Vangelo perché non ci sono. Questi versetti 26, 27, 28, 29, che costituiscono la prima parabolina, sono un testo solamente e unicamente di Marco. Non ci sono, non hanno paralleli, non ci sono negli altri Vangeli. Allora, che cosa c'è scritto? Proviamo a commentarli. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorme o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Che cosa fa questo contadino? Vi ho detto, nel Vangelo di Marco non cercate definizioni. Ci sono dei personaggi che si muovono. Attraverso le loro azioni noi comprendiamo come è fatto e con quale dinamica si presenta il regno. Il contadino all'interno del racconto non compie alcun operato se non quello di spargere la semente. Fa solo quello. Può dormire in beata pace, come vi dicevo prima. Può dormire abbondantemente o può anche stare sveglio. La crescita della pianta non dipende dalla sua opera e tantomeno dalle sue capacità. Sia un buon contadino o un cattivo contadino è lo stesso. Stessa cosa. Da notare poi che nella narrazione non si accenna nemmeno al fatto che la pianta abbia bisogno di cure, perché non c'è scritto che la bagna, non c'è scritto che la terra va arata, non c'è scritto che poi lui dopo averla bagnata si passa di nuovo e come si può dire, sarchia un po' la terra, no? Non c'è scritto neanche quello. Questo contadino si limita a seminare. Il silenzio su questi dettagli a che cosa serve? Serve ad evidenziare la crescita spontanea della pianta, come una continua incessante maturazione. Per poi vedete che ci sono tutte le fasi. La terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno della spiga. Sono tutte le fasi. Questo testo fa eco a un altro testo dell'Antico Testamento che voi conoscete, che è il Salmo 127 al versetto 2. Se qualcuno me lo legge. Un versetto famosissimo, lo conoscete, un salmo molto connoto. Versetto 2. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Vedete che è un versetto che ben, può essere ben accostato al testo che stiamo leggendo noi. Questi versetti 28 e 29. La terra produce spontaneamente, c'è scritto automate in greco, in automatico, proprio in automatico c'è scritto. La terra produce in automatico e che cosa significa? Che l'azione di Dio produce il suo effetto, i suoi risultati, a prescindere dalla volontà e dalle decisioni umane. La terra produce in automatico, indipendentemente dall'azione del contadino. Cosa significa? Significa che Dio produce il suo effetto e i suoi risultati a prescindere dalla volontà e dalle decisioni umane. Il processo di maturazione poi è descritto in tre passaggi, quello che vi dicevo prima: la crescita dello stelo, l'apparire della spiga e il chicco nella spiga. La parabola termina poi col sopraggiungere della mietitura. C'è scritto mettere mano alla falce. Mettere mano alla falce è un riferimento al libro di Gioele, del profeta Gioele, al capitolo 4, i versetti 12 e 13. Dove, che cosa indica mettere mano alla falce? Non una cosa tanto bella, perché indica il giudizio di Dio come mietitura delle nazioni pagane. Cioè la mietitura sarebbe quella delle nazioni pagane alla fine dei tempi. Gioele 4, 12, 13. La stessa immagine della falce, voi sapete dov'è, perché è nell'Apocalisse, al capitolo 14. Anche lì si parla della falciatura, sì, anche lì. Trovato Gioele? Perché è piccolo. Gioele purtroppo è uno di quelli piccoli. Gioele è piccolo. Prima che non c'è È lì in mezzo, cioè su Ageo è lì in mezzo. Aspetti, io qua c'ho la versione semplificata, faccio prima. Aspetti, perché qua se ci vedessi soprattutto, sono un po' orba. Oh, santo cielo. Ma li hanno fatti per degli orbi, è vero. Non è fatto per gli orbi questo. Gioele, eccolo qua, trovato, ma perché qua. È Gioele Michea Naum. È giù di lì. No, questo è Giona, ho sbagliato io. No, è Gioele Amos Abdia. Oh mamma mia. Allora, io arrivo di qua. Gioele, eccolo qua. Trovato, perfetto. 4. Ma sono 4 pagine e tutto, cioè. 4, 12, 13. 12, 13. Si affrettino e salgano le genti alla valle di Giosafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le genti all'intorno. Date mano alla falce, perché la messa è matura. Venite, pigiate, perché il torchio è pieno. E i tini traboccano, tanto grande è la loro malizia. Eccolo qua. Poi Apocalisse 14, 14, 20. Eccola qua, se qualcuno la legge. L'ho trovata io. Prego, se qualcuno la vuole leggere. Apocalisse 14, eccola qua. Anche lì c'è il tema della falce. Ed è chiaramente il giudizio legato all'uso della falce. Poi vidi l'agnello in piedi sul monte Sion e con lui 144.000 persone che portavano scritto in fronte il nome dell'agnello e il nome del Padre suo. E udì dal cielo un suono forte, come il fragore dell'oceano e come il rombo. 14, 14, 20? Ah, 20, ecco. 14, 14, 20? È un po' prima quello. La pigiatura? Sì, la pigiatura. La pigiatura venne fuori della città. E il sangue sgorgato dal tino fu tanto, che arrivò all'altezza della bocca dei cavalli fino a quasi 300 km di distanza. Sì, quello è il risultato. Se poi va un po' prima, 14, 14, 14. Ah, 14, 14, aspetta. Poi guardai e vidi una nuvola bianca. Sulla nuvola era seduto uno simile al figlio dell'uomo. Sul capo aveva una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio e con voce potente gridò a colui che sedeva sulla nuvola: prendi la tua falce affilata e comincia a mietere. L'ora è giunta, la terra è pronta per la mietitura. Allora colui che sedeva sulla nuvola passò la falce sopra la terra e la terra fu mietuta. Poi un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, anche lui aveva una falce affilata. Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, lasciò l'altare e con voce tonante disse all'angelo dalla falce affilata: prendi la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra. Le sue uve sono mature. L'angelo passò la falce sopra la terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò i grappoli nel grande tino della pigiatura, che rappresenta il terribile castigo di Dio. La pigiatura avvenne fuori dalla città e il sangue sgorgato dal tino fu tanto che arrivò all'altezza della bocca dei cavalli fino a quasi 300 km di distanza. Ma questi angeli con la faccia, se ci faccio un po' caso, in qualche affresco si vedono, adesso non mi ricordo più dove, ma io li ho visti, qualche affresco gli angeli con il falcetto in mano, si vedono. Perché c'è questo riferimento al giudizio? Perché qui la parabola si ricollega, questa parabolina qui, si ricollega alla parabola che c'è di sopra, che è quella del seme. Il seme cade in differenti terreni, e alcuni terreni indicano il rifiuto e la non accoglienza della parola. Qua c'è un riferimento non solo al giudizio finale, ma questo riferimento al giudizio finale fa anche riferimento all'accoglienza o meno della parola, esattamente come avviene di sopra nella parabola del seme, che cade in differenti terreni, e alcuni di questi terreni non accolgono la parola. Ci siete? Il riferimento è sopra, in realtà. Questa parabola che cosa sottolinea? Sottolinea il fatto che la crescita del regno avvenga indipendentemente dalle cure umane. Il risultato è assicurato, anche se, a differenza dell'insuccesso dell'accoglienza della parola, non vengono indicati le motivazioni del risultato positivo. Perché è un po' un paradosso. Prima, nella parabola di sopra, quella del seme che cade in differenti terreni, gli viene detto perché il seme non viene accolto, a causa di che cosa non viene accolto. Qua il risultato è positivo, però non vi viene mica detto perché il risultato è positivo. Questo si sa solo che si raggiunge grazie all'azione efficace di Dio. Però non ci sono proprio delle vere e proprie motivazioni, come invece accadeva con il seme caduto nei terreni sbagliati. Ogni terreno vi dice, la parabola vi vuol dire come mai quel terreno non riesce ad accogliere la parola. Qua chiaramente il seme cresce grazie all'azione di Dio, però il risultato è positivo, però non si dilunga a spiegarvi perché il risultato sia positivo. Parabolina di sotto. Questa volta, parabolina e ultima, che leggiamo insieme, diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? Allora, questa volta la parabola è introdotta da una duplice domanda. Vi dice: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Oppure, con quale parabola possiamo descriverlo? Poi ci sono i due versetti che vi spiegano la dinamica di crescita della senape e che è posta in parallelo con il regno di Dio. La parabola è incentrata sul seme di senape. Il seme della senape non è il più piccolo dei semi esistenti in natura e non lo era nemmeno ai tempi di Gesù. È grande un millimetro il seme della senape, di questo tipo di senape, perché ci sono un sacco, io non so se qualcuno si intende di botanica tra di voi, ma io ho letto preparando questo testo che ci sono diversi tipi di senape. Tra l'altro la senape non mi piace, per cui avessi usato un'altra pianta forse mi andava un po' meglio. Comunque non è il seme più piccolo esistente in natura. C'è scritto, ho letto tra l'altro, che il seme della fragola è ancora più piccolo, solo che i romani non mangiavano le fragole grosse, perché la fragola grossa è conosciuta soltanto da 300 anni ed è frutto di un incrocio, a quanto ho capito io. I romani mangiavano le fragoline di bosco. Però il seme della fragola sarebbe più piccolo teoricamente, perché quello sopra la fragola, quello, noi ci mangiamo che seme in realtà, ed è piccolissimo. Quindi il seme della senape non era il seme più piccolo esistente né allora, né era il seme più piccolo che loro conoscessero. Ne conoscevano di più piccoli ancora. Con tutta probabilità era il più piccolo conosciuto in Palestina, o meglio, quello che ovviamente attirava di più l'attenzione. A tal proposito bisogna fare una distinzione, che esistono varie specie di senape che hanno semi di grandezza differente. Quella senape gialla ha il seme più grosso di quella nera, questa è la senape nera. La senape nera ha il seme di un millimetro, la senape gialla è grande il doppio. A lui Gesù probabilmente si riferisce alla senape nera, perché è la senape più diffusa in Medio Oriente ed è quella che raggiunge l'altezza maggiore. Dovrebbe raggiungere l'altezza di 3 metri. Io ieri ho cercato una foto, non l'ho trovata neanche a crepare. Quindi fidiamoci che raggiunga. Ho detto, fammi vedere sta benedetta pianta. Ho provato a cercare questa benedetta pianta di senape per farmi un'idea di una pianta di 3 metri, non ho trovata manco una. Quindi io mi fido che questa benedetta senape nera, si chiama Brassica nigra, arrivi all'altezza di 3 metri. Allora, la senape nera si chiama Brassica nigra. Perché 3 metri è un bel po', eh. Le altre senapi sono più piccole. La figura del seminatore in questa parabola ha un rilievo ancora minore di quella di quello che aveva nella parabola prima, perché c'è scritto semplicemente quando viene seminato per terra. Se ne deduce che qualcuno, un seminatore, la semini, ma non è nemmeno nominato il seminatore. Quindi ha un rilievo il seminatore ancora minore rispetto alla parabola di prima. Il racconto è incentrato sul risultato della semina, stavolta l'albero, la cui grandezza è in contrasto con quella del seme, è inversamente proporzionale. È lì che la parabola gira su questa contrapposizione e questo paradosso che da un seme minuscolo, grande un millimetro, nasca una pianta molto grande, una pianta di 3 metri. Va anche presa in considerazione l'immagine degli uccelli che si riparano alla sua ombra. Questa immagine degli uccelli che si riparano all'ombra dell'albero è un'immagine molto conosciuta nell'Antico Testamento. E cosa indicava? Indicava i popoli pagani che erano invitati ad essere destinatari del regno di Dio. Indicava i popoli pagani che potevano essere anche loro destinatari del regno di Dio. Provate a leggere Ezechiele 17, 22, 24, questo è più facile da trovare. Ezechiele 17, 24. Dice il Signore Dio, sì, sì, sì. Anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto massiccio, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Ancora? Sì, sì, ancora qua. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Qua il paragone con il cedro, ma la pianta di cedro è grandissima, i cedri del Libano sono grandissimi, non è la pianta della senape, chiaramente. A che cosa serve il contrasto tra il seme piccolissimo e l'albero? Serve a mettere in luce la modalità dell'inizio del regno e la prospettiva della sua realizzazione. Serve a mettere in luce l'inizio e la prospettiva della realizzazione. La missione di Gesù per i contemporanei fu un fatto di pochissima importanza, ma in futuro avrà una rilevanza universale. Anche la predicazione di Gesù fu un fatto di poca importanza alla sua epoca, ma la prospettiva della realizzazione era una prospettiva positiva. Ebbe e ha una rilevanza universale. Allo stesso modo, per il lettore del Vangelo, l'ascolto e accoglienza della parola sembra un fatto di poco conto, perché dovete sempre pensare che il regno di Dio innanzitutto è l'ascolto e l'accoglienza del seme della parola. Anche l'ascolto e accoglienza della parola sembra un fatto di poca importanza, che non ha efficacia nella storia. Invece è destinato a incidere con forza nel tessuto delle persone e nella convivenza umana. L'accoglienza della parola di Dio, che sembra un fatto nel cuore di ognuno, che sembra un fatto di scarsissima rilevanza, che non ha alcuna efficacia concreta nella storia, è invece destinato ad avere, a incidere con forza nel tessuto dei singoli, ma anche nella convivenza degli uomini. Quasi finito. Allora, io vi ho scritto qui alcuni spunti di riflessione, se possono servire. Primo, alcuni sono un briciolino provocatori, giusto per, insomma, vivacizzare. Allora, primo elemento. Queste parabole descrivono il modo di agire di Dio e il suo regno. Ma attenzione, questo significa che non ce n'è un altro. Cioè, in modo, queste parabole descrivono il modo di agire di Dio e il suo regno. Questo è il suo modo di agire, non ce n'è un altro. Non so se riuscite a capire. Noi immaginiamo che sia questo modo di agire e ce ne sia poi un altro. No, no, è questo e basta. Attenzione, è questo. Il regno di Dio si chiama regno di Dio, come ho detto prima, ed innanzitutto è opera sua. Al contadino, una volta seminato, non rimane che pazientare con fiducia e attendere la mietitura che certamente verrà. Il contadino può dormire, sonni tranquilli, per quale motivo? Perché il seme cresce da solo e non ha bisogno di lui, e soprattutto può dormire sonni tranquilli perché la mietitura ci sarà. Quindi lui la mietitura ce l'ha assicurata. La priorità qui è chiaramente di Dio. Questo manda in crisi il nostro efficientismo religioso. Perché il regno di Dio non cresce incrementando oltre misura le nostre attività. Per quello che noi siamo stati abituati tutti quanti è questo, noi incrementiamo le nostre attività e il regno di Dio cresce, che non vuol dire che non dobbiamo star lì a fare niente, perché in realtà non è neanche vero quello, però attenzione che il regno di Dio non cresce oltre misura incrementando le nostre attività. Attenzione, perché in questa modalità di pensiero c'è un sottotraccia, c'è una mentalità produttiva, sotto: più lavoro più il regno di Dio cresce, una mentalità un briciolino produttiva. No, non è mica così. Paradossalmente, non bisogna affannarsi nemmeno per la crescita del regno di Dio. Perché non bisogna nemmeno affannarsi per la crescita del regno di Dio? Quando facciamo ciò che a noi è richiesto, è sufficiente. Bisogna poi lasciare spazio alla fede in Dio, che non viene meno alla sua promessa. A noi è chiesto di fare ciò che a ciascuno è affidato, punto. Dopodiché dobbiamo anche noi, come il contadino, avere fiducia perché il regno di Dio cresce. In un certo senso questo ci consente anche di dormire serenamente, perché quello cresce e la mietitura sicuramente ci sarà. Non è che se io lavoro un briciolo di meno quello non cresce, quello cresce lo stesso. Questo ci toglie un po' di ansia. La parabola rovescia chiaramente l'idea di un regno di Dio frutto unicamente della nostra opera e, attenzione, del nostro lavoro, del nostro valore. Più io sono bravo, più produco regno di Dio, più questo cresce. No. Può crescere anche con una persona che si considera di poco valore. Paradossalmente può capitare anche quello. La seconda parabola non sottolinea la spontaneità della crescita del regno come la prima, ma il contrasto e la contraddizione tra l'inizio e il risultato. Quindi cosa significa? Che in mezzo alle difficoltà, alle prove, al nascondimento, il regno di Dio viene come il piccolo seme e la certezza del grande albero. Ci possono essere difficoltà, prove. Noi seminiamo e accogliamo nel nascondimento il regno di Dio, ma il regno di Dio viene. E quel piccolo seme che noi seminiamo, quel piccolo seme di regno di Dio che noi seminiamo nel nostro cuore o nelle nostre relazioni, sono la premessa del grande albero. Quindi anche se a noi sembra poco, è poco, è come il piccolo seme, è poco per noi, ma in realtà il piccolo seme produce il grande albero. Ed è sicuramente il grande albero si produrrà. Ci sono cose piccole che sono indizi di grandi sviluppi. Anche se gli inizi del regno sono umili, essi fanno pregiasire la realtà finale. È quello che vi dicevo prima. Gesù fu misconosciuto dai suoi contemporanei. però già si presagiva ciò che sarebbe potuto accadere. Ci sono piccole cose che hanno in sé l'indizio di un grande sviluppo futuro. Anche se gli inizi del regno sono umili e si fanno pregustare la realtà finale. E questo ci consente di avere fiducia a questa a questo assaggio anticipato, ci consente di avere fiducia nel futuro e ci dà la forza di attendere e preparare il regno. Il regno di Dio è poi il grande albero finale. È una realtà benigna, ma il regno di Dio sta crescendo e proprio come il grande albero sta ampliando i suoi rami. L'immagine dei rami è molto bella, per avvolgere ogni cosa. Anche il regno di Dio cresce anche adesso, in un certo senso è come se stesse mettendo i rami. E questi rami continuano a crescere, ma crescono per cosa? Per abbracciare ogni cosa. Alle braccia così estese il regno di Dio dà tanta ombra che in esso ogni cosa trova rifugio, ma già da adesso, perché la pianta sta crescendo e sta allungando i rami, che sono come delle braccia che abbracciano ogni cosa e che offrono ombra a chiunque la chieda. Attenzione, perché ogni tanto si fa il paragone tra la piccolezza del seme e la grandezza della pianta, per indicare la Chiesa storica, diciamo, che estende il suo dominio sul mondo. No, la Chiesa non è l'albero, cioè l'albero non rappresenta la Chiesa dal punto di vista storico, che estende i suoi rami su tutto il mondo, ok? Anche la Chiesa è un piccolo e povero e umile seme di senapa, anche la Chiesa. Perché l'albero è il regno di Dio, non è la Chiesa è il seme, è il piccolo seme di senapa, anche lei. Tanto spesso si fa il parallelo tra l'albero e la realtà storica della Chiesa, perché è facile, perché dalle origini umili di Gesù, misconosciuto, e poi la Chiesa si è diffusa nel mondo. Questo è un parallelo facile da fare, ma in realtà non è così, perché la Chiesa è il seme, l'albero è il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a noi, ma assume forme storiche umili, piccole. La piccolezza è uno dei criteri fondamentali della sua presenza in mezzo agli uomini. Vi dicevo prima che queste paraboline ci mostrano com'è il regno e la sua dinamica, che vuol dire che il regno di Dio è piccolo, umile, nella nostra realtà storica. La presenza del regno si vede e non si vede, non fa chiasso né rumore. Sta in fondo e dietro le cose. Questa è la sua natura e la modalità della sua presenza. Il regno di Dio c'è, anche oggi, però ha la modalità di presenza del piccolo seme. È un seme piccolo, che sembra inutile, sostanzialmente, che non si vede, misconosciuto, ma che nascostamente cresce. Continua a crescere e fin da adesso si pregusta già il grande albero. Qui mi fermo. Spero di essere stata comprensibile. Prego. Se avete domande, riflessioni, quello che volete. Risposta a quello che dicevi oggi. Cos'è la risposta che dicevo oggi? Tu dici che devi andare in Brasile perché là ci sono le cose, 6.000 persone che ti aspettano. Aia! E Beatrice che ti dice no, tu non fai niente. Non si può fare niente, voglio il Dio. O no? Non lo pensi da quello? No? Anch'io. Perché eravamo noi tre che ne stavamo parlando. No, secondo me la più bella definizione del regno di Dio, l'ho già detto due o tre volte, è di Adriana. Dov'è nascosta Adriana? Piccola. Ripetila. Ripetile tu, Adriana. Poi chiediamo a Chiara se ha risposto bene a questa definizione, dove che si trova? Ma io non oggi, ma la volta scorsa, quando parlavamo già del regno di Dio, ho semplicemente pensato che a me sembra che sarebbe una cosa bellissima se tutte le persone di tutta l'umanità vivessero come Gesù, se fossero come Gesù. E allora ho pensato che la realizzazione di questo regno di Dio possa essere l'insieme di tutti gli aspetti che ogni persona ha che assomigliano a Gesù. Cioè se chiunque fa un gesto d'amore che appartenga a qualsiasi religione, certo, da qualsiasi parte, questo contribuisce a far crescere il regno di Dio. No, più o meno avevo detto questo. Sì, la stessa cosa. Perché è una, vuol dire che una, ogni persona accoglie in sé il germe della verità, che lo riconosca come Vangelo oppure no, comunque ha in sé la luce di riconoscere il germe della verità e di lasciarlo crescere. La stessa cosa, sì, è così. Quello è il fondamento, ognuno accoglie in sé dalla sua coscienza il germe della verità e sceglie di lasciargli spazio, perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto, sta a noi scegliere di lasciare spazio a quella luce di verità che ogni coscienza umana porta. È la stessa cosa. L'unica cosa che però mi veniva una specie di perplessità è quando si faceva riferimento al seme che cresce indipendentemente dal contadino che dorma o che non dorma, eccetera. Sì. Perché pensavo che comunque anche una persona che ha accolto l'annuncio del Vangelo può, nella sua libertà, anche, come dire, non contribuire poi a farlo crescere. Ah, certo. Cioè io posso, sì, dopo aver accolto la parola di Dio, certo, allontanarmene, certo, no? E quindi in quel senso lì mi sembrava che anche l'uomo abbia una responsabilità, sì, nel far crescere. Non è che possa dire vabbè, io ho accolto, ma accolto va accolta nella pratica, va accolto nella vita di tutti i giorni, va accolto in continuazione questo annuncio del Vangelo. Cioè io praticamente devo far diventare la mia vita una vita evangelica, se no, voglio dire, perlomeno nella mia vita il seme del regno di Dio non cresce. Sì, questo non mi sono espressa bene. Cioè nel senso che questa parabola, secondo me, risponde a un dato di fatto, cioè, perché poi ci sono altri testi e vanno tenuti un pochino insieme. Cioè questa parola secondo me risponde all'ansia delle persone che pensano di far crescere il regno in base alla loro opera. Quello è il punto di partenza. Chiaramente se il mio punto di partenza è devo impegnarmi perché il regno di Dio cresca, e questo mi causa anche un po' di, come si può dire, di agitazione, allora, o poi di ci non aspettiamo risultati. E poi ci aspettiamo i risultati, o di non serenità, allora la risposta a questo atteggiamento è stai tranquillo che il regno in te e fuori di te cresce. Chiaramente poi c'è l'altro pezzo, che è la parabola del seme che cade nei diversi terreni. Sta al terreno a cogliere la parola oppure no, e lì è la responsabilità nostra scegliere che tipo di terreno essere. Sono due facce della stessa medaglia. Cioè chiaramente chi si affanna per realizzare il regno come se questo dipendesse dalle sue parole, dalla sua opera, e c'è chi invece non capisce che il regno è anche responsabilità sua. Cioè le due cose bisogna sempre tenerle insieme. A me piace più questa, no? Perché mi dà, dipende da un po' dalla situazione in cui si trova uno. A me piace pensare che posso dormire serenamente, che il regno cresce lo stesso, a me dà molta pace, sinceramente. Ma perché magari io sono fatta così, e quindi a me piace pensare questo. Certo, ognuno di noi è il terreno in cui la parola cade e il regno cresce. In realtà siamo noi una piccola parte del regno, siamo noi stessi. Però anche pensare che questo, anche indipendentemente da me, cresca per la forza di Dio, a me fa molto piacere. Poi uno sceglie quello che gli piace di più, quello che gusta di più e sente di più. Questa forza di Dio, però, non potremmo anche chiamarla Spirito Santo? Sì, tranquilla, sì, sì, è quello. E grazie a Lui che... Sì, sì, sì, uguale. Uguale. Però il nostro modello di base è quello che dobbiamo fare per ottenere dei risultati. Cioè, questo che ci porta a applicare, cioè, lo stesso criterio dappertutto. Mentre questo è un ribaltamento completo. Attenzione che poi... scusa, un fare che è un fare... fuori di noi spessissimo, cioè è un fare che è un fare fuori di noi, non dentro di noi. Poi scusi se l'ho interrotta, ma no, beh, è chiaro, insomma, mi sembra che sia un'interpretazione corretta. Ah, no, questo atteggiamento, quello che tu preferisci, no? Quello di lasciar fare, lasciar fare a Dio. Addio. Fino a un certo punto, perché nel Vangelo di Giovanni, in cui c'è scritto Dio, nessuno l'ha mai visto. Altri dicono che noi siamo le mani di Dio, che Dio appunto non è un nostro compagno di viaggio in carne ed ossa, una persona. E quindi può creare un atteggiamento di disimpegno, di non coinvolgimento personale. Cioè Dio agisce attraverso di noi. Quindi, secondo me, queste due cose è giusto tenerle insieme, ma solo per evitare l'ansia del risultato, l'ansia da prestazione, non la prestazione in sé. È proprio, cioè, questo. È cura l'atteggiamento con cui facciamo le cose, non il farle. Come dice, è proprio non preoccuparsi del risultato, cioè sì, l'agire, certo, sì, con la mente libera. Cioè, sì, certo, però non farle. Certo. No, fai quello che ritieni di fare, sì, ma non essere ossessionati dalla ricerca del risultato, dell'efficienza. Poi il pezzo dei cigli del campo che crescono. Sì. Anche perché noi siamo peccatori e il nostro fare è segnato dal peccato, quindi è limitato. Come facciamo a sbagliare? Noi siamo peccatori. Il nostro fare è il nostro fare, noi siamo peccatori. Il nostro fare è sì positivo, ma è anche segnato dal peccato. Quindi, cioè, attenzione, perché io quando ci penso dico, questo mi consola. Diciamo che è imperfetto, sì. Non è peccato. È molto imperfetto e quindi questo mi fa dire, sì, ok, esatto. C'è la nostra opera, ma per fortuna c'è anche l'opera di Dio. Sì, non abbiamo la certezza di agire nel giusto e correttamente. Scusa, cioè, però c'è da dire quello, una cosa. Io penso che, come dicevi tu, bisogna riuscire a mediare, certo. E adesso tu hai scelto questo qui, bellissimo, ma quello, il tuo problema è, c'è anche in altre parabole molto più grandiose, per esempio quel re che va e lascia i 5 talenti a uno, i 3 talenti a un altro, i 2 talenti. E poi chi è premiato? Chi di 5 l'ha fatto diventare 10? Sì. Così. E a quell'uno che aveva un po' paura, forse, e questo. Dipende. Se gli tolgono via anche quello che aveva ricevuto, gliele danno a quello che non aveva fatto di più. Oppure avevo fame e mi avete dato da mangiare. Interessante, avevo fame e Gesù presente, mi avete dato e l'insieme. In una comunità, noi non siamo delle isole. E poi anche per smontare un po', io ho fatto il parroco a Roma e nella festa di Cristo Re, insomma, c'erano tanti bambini, allora si fanno le domande ai bambini, ho chiesto, ma secondo voi il regno di Dio Dio re nelle vostre famiglie c'è, c'è, e nella vostra comunità anche, e poi quando fate il catechismo sì, e nel Vaticano no. Se vuoi la battuta, cosa mi è venuto in mente di chiedere una cosa così a Roma, però è anche vero che i bambini possono dire delle cose vere, e la Chiesa non è il regno di Dio, è segno, piccolo strumento per la costruzione del regno. E poi fin dove arriva il regno, io ritengo che sta in Alaska, sta nella Cina, sta in mezzo al Mediterraneo, la gente che muore, cioè il regno è, non lo si può confinare, sta in insomma. Sta in India. Beh no, poi sta, torno a fare la citazione, l'ho già fatta altre volte, mi ripeto, Cronin, le chiavi del regno. A un certo punto c'è la frase, il regno di Dio dove andate a cercarlo? In cielo, chissà dove. Il regno di Dio è qui, nelle vostre mani. E dentro di noi. Ma Santa Teresa di Calcutta diceva, fai questo ma, cioè, ma non sei apprezzato, fai quello e non hai risultati, ma fallo lo stesso, come dire, l'impegno tu lo metti, poi sarà poi qualcun altro che ci pensa. Ma non c'è contraddizione, perché tutti questi testi nascono in realtà da esigenze diverse, dalle comunità, che nascevano dalle comunità che ricevevano il Vangelo. Quindi c'era una comunità che era più volta all'attivismo e bisognava un pochino sedarla, in un certo senso, o era troppo ansiosa del risultato, non vedeva i risultati, era scandalizzata dal fatto che loro magari facevano e non vedevano niente, anzi aumentava l'incredulità magari, perché avevano questi problemi. C'era invece quella comunità che faceva poco, si impegnava poco, non accoglieva nemmeno i bisogni degli altri, cioè nascono, bisogna sempre guardare da dove partono, dal bisogno che c'è probabilmente sotto. Sì, comunque la nostra mentalità occidentale, della ricerca, dell'efficienza, dell'attività, del risultato. Secondo me, questo è nostro, facciamo anche, in un altro modo. Sì, secondo me facciamo anche, io insegno anche San Paolo, no? E allora a me, secondo me, facciamo anche fatica a pensare che la grazia di Dio gratuitamente ci raggiunga, indipendentemente da quello che facciamo. Facciamo un bricciolino, proprio perché abbiamo quella mentalità fatica, perché bisogna sempre meritarsi qualcosa. E pensare che arriva anche se non me lo merito, il criterio sempre un po', cioè in realtà io, Paolo ci insegna che noi facciamo perché abbiamo ricevuto la grazia, cioè prima viene la grazia di Dio, il dono di Dio, e poi in base a questo dono noi facciamo. Invece noi tendiamo sempre a far pensare il contrario: io faccio, sono bravo e allora Dio mi dà la grazia. È un po' pochino la nostra mentalità, però non è una mentalità che un po' la Chiesa ci ha dato. Ho detto lei, non io. Non vuol dire che sto con le mani in mano, però pensare che la grazia di Dio mi raggiunga anche se non me lo merito è un po' come stamattina che veniva fatto un parallelo con il perdono, no? Cioè la persona che ci parlava diceva che Dio ci perdona, ci offre il perdono indipendentemente, non è che pretende che noi prima ci... Invece a me veniva da pensare stamattina che sempre la Chiesa ci aveva un po' inculcato quest'idea, cioè che tu devi pentirti, altrimenti Dio non ti perdona. Sì. Perdono dobbiamo chiederlo, invece lui ce lo dà senza che lo chiediamo. Certo, lo chiedi perché è giusto che anche l'uomo nasca il desiderio in lui di qualcosa, di un dono, ma il dono è già lì, ci siamo, è giusto che anche l'uomo nasca in lui un desiderio di qualcosa, questo ci mette alla sua parte, ma il dono è già lì. indipendentemente, ancora già pronto, già lì prima. Io volevo solo ringraziare per questo commento, perché l'ho sentito veramente una bella notizia. Ed è raro che io sento tantissimi commenti del Vangelo, e mi affascinano, mi attirano, mi attivano a un livello di idee, di vorrei fare, vorrei, però è raro che lo sento finalmente, cioè che mi liberi, no? E l'ho sentito una notizia liberante proprio, che mi fa respirare meglio, che mi fa stare meglio, e di questo volevo più ringraziare. Grazie, grazie a lei. Grazie. Aggiungo, mi collego a quello che hai detto e poi gli altri, non mi ricordo, mettendo più non si sente. Che sì, in effetti, non, anche io non ci avevo pensato tanto che è vero che come le piante anche la linea di Dio avanti, comunque, no? E oggi così mi venivano in mente, dicevo, ma guarda, è vero che è liberante, perché ci sono tante situazioni, no? Che nella nostra vita, anche degli altri, che sono lì ferme da tanto tempo, che la gente sta male, che non si sbloccano, che... E tu cerchi di amare, però a volte non ci riesci, a volte non ce la fai, non hai... ecco, qualche volta invece sì, cioè fai anche delle cose, no? Però la gente continua a stare male, tu anche. E allora è bella questa cosa qua, che comunque il regno di Dio, ma probabilmente noi non capiamo, ma ha un senso forse anche quelle situazioni lì, cioè il regno di Dio va avanti comunque. E per associazioni di idee mi veniva in mente che qualcuno a un certo punto aveva detto, ma anche sulle... Dio è talmente amore, ci vuole talmente bene, ed è talmente... stamattina veniva tanto fuori, che rispetta tantissimo la nostra libertà. Io direi che quando noi riusciamo a farlo nei confronti degli altri, rispettare la libertà dell'altro trovo che sia un esempio, non so, per me poi giustamente ognuno sente delle cose più di altri, no? Mica per niente siamo diversi, e questa forse è la nostra forza, essere diversi. E quando qualcuno riesce a rispettare la mia libertà, o io mi rendo conto che riesco a rispettare la libertà dell'altro, mi sembra una cosa importante. Cioè, non lo so se c'è una cosa più grande ancora, no? E se pensare che Dio faccia così è... E allora, sentivo qualcuno diceva che c'entra con questo regno di Dio che comunque va avanti, che Dio è talmente amore che anche sulle nostre righe storte, no? Che a volte fai così perché con gli elementi che hai in quel momento la riga dritta non riesci a farla, c'è poco da fare, ci portiamo dietro tante cose, no? Anche che magari non ce ne rendiamo neanche conto. Altre volte ce l'hai messa tutta, ma insomma non è che tutte le ciambelle non escono col buco, e quindi... E che comunque è talmente amore che su queste righe storte lui riesce... Probabilmente la strada era quella per arrivare al regno di Dio. Noi prendiamo di là e lui cambia la strada, dice no, ma guarda che va bene anche questa, no? Come dire, le nostre righe storte a un certo punto ritornano. Allora forse è collegato a questo, che questo regno di Dio comunque va avanti, e anche le cose che ci sembra che proprio non ci stanno, forse hanno un senso. Sì, perché anche il problema è che il regno di Dio comunque ha a che fare con la storia. Nella storia c'è di tutto e di più, c'è la libertà degli uomini che produce di tutto e di più. E forse il messaggio è anche questo, di dirti guarda che in questa storia che è sofferenza, che è dolore, che è errori, che è cose belle, nel quale ci sono le persone che capiscono, quelle che non capiscono, c'è di tutto e di più. Tu devi sapere che comunque il regno va avanti. Il regno poi è ogni persona che lo porta. E chiaramente il regno ha a che fare con la storia, e non può, cioè sarebbe impossibile che il regno di Dio fosse solo righe dritte, perché se il regno di Dio fosse solo righe dritte vorrebbe dire che noi saremmo già in paradiso. Non è possibile. Il regno di Dio cammina per forza per strade storte, perché siamo noi, ma come dicevo, la cosa piccola porta in sé l'indizio di ciò che sarà alla fine. E quindi ci aiuta anche ad avere fiducia, cosa piccola ha in sé l'indizio di ciò che sarà la fine. E anche se cammina per strade di montagna, come dico io, comunque si arriva verso la fine, perché il regno di, cioè pensare che il regno di Dio cammini nelle nostre vite per strade dritte non è realistico, perché non è il nostro mondo quello, non è il mondo in cui noi viviamo, non dico quello. Mio marito vuole aggiungere qualcosa? Una cosa. Ah, grazie. Vedevo che meditavi, masticavi qualcosa da chiedervi. È stato un passaggio che mi ha colpito, ed è stato un momento in cui, utilizzando l'immagine della mietitura, hai fatto riferimento al testo di Gioele, ma poi ancora di più al testo dell'Apocalisse. No? E mi è venuto in mente questo, che il concetto di mietitura o la realtà della mietitura richiama due dimensioni diverse, no? Cioè intendo dire raccogliere i frutti quando sono maturi in qualche modo, è vero, no? Ma anche appunto quella dimensione un po' convolgente, no? Che viene descritta nell'Apocalisse, cioè la, appunto, la punizione del male, cioè queste due dimensioni, no? Come stanno insieme? Bella domanda. Nel senso che effettivamente, bella domanda. Si percepisce un contrasto tra queste due dimensioni diverse. No? Il giudizio delle opere che comporta, non potrebbe andare nella storia della teologia, Agostino, la separazione, appunto questa immagine dell'Apocalisse, la separazione del grano, la zizzania e così via, eccetera, no? I giudizi. E dall'altra parte la dimensione invece del portare a compimento una realtà che è una realtà di salvezza, no? Salvezza per tutti, diciamo. La risposta non la so, potevi farmi una domanda più facile. Però è vero, perché da un lato c'è la mietitura come la raccolta del frutto, come dice lui, dall'altro c'è la mietitura come la raccolta del non frutto. E c'è l'immagine del giudizio. Sangue, mamma mia. C'è la dimensione del giudizio. Perché del resto, scusatemi, Dio non è stupido e sa bene ciò che funziona e ciò che non funziona. E quindi le due cose stanno insieme, non so come, ma la tua riflessione è giusta, perché il Vangelo, quel testo lì da un lato punta alla mietitura come al frutto che sicuramente verrà, quindi stai sereno perché se hai seminato ci sarà un frutto, però dall'altro lato sulle opere c'è anche un giudizio, cioè sulla mancanza di opere, cioè sul non frutto. Ma la zizzania è un'altra pianta. Lì sembra più che altro la spiga che non ha frutto, che non ha il semino dentro, non so, esistono delle spighe che sono vuote. Ecco, quella roba lì più che altro sembra, perché la zizzania è un'altra pianta. Lì sembra più che altro qualcun altro che da fuori ha messo un altro seme dentro lì. Lì sembra più che altro che c'è la mietitura con il frutto, la pianta che ha dato frutto e la pianta che invece frutti non ne ha. Ma non potrebbe essere pensare all'accoglienza della parola anche. Che ognuno può avere o avere di meno o non avere affatto, no? Cioè in pratica il risultato non sarà altro che frutto della mia libertà. Ah, certo. Quindi nel momento in cui io accolgo la parola e cerco di viverla, ci saranno i frutti assicurati. Nel momento in cui io non l'accolgo, è quasi come un escludermi da questo risultato finale. Cioè non è tanto Dio che mi esclude. Ah, no, siamo noi. Quanto sono io stessa che mi escludo. Io mi chiedo sempre quale possa essere la consapevolezza di una persona che si esclude. Me lo chiedo spesso, perché mi sembra che chiunque quando fa delle scelte nella vita le faccia in base a un pensiero, in base a una convinzione. E quindi mi chiedo, perché queste persone che ritengono di escludersi dal Vangelo, di escludere dalla loro vita Gesù, perché fanno questa scelta? Cioè io me lo chiedo davvero, perché mi sembra che faccia parte dei loro limiti, ecco. Mi sembra che se fossero veramente consapevoli di quello a cui rinunciano, non lo farebbero. Cioè che sia una cosa inconsapevole, una scelta inconsapevole. E però non è neanche degna di peccato o di castigo, ecco. Perché non è... E difatti... Non arriva fin lì o non fin là. E difatti, secondo me, in quel senso lì potremmo essere tutti accolti nel regno di Dio. Ma molto difficile. Non siamo noi a giudicare. Molto difficile. Però molto difficile. Questo problema... mi tormenta abbastanza, diciamo, cioè chiedermi come mai una persona dice no. Ma se lo chiedevano anche loro, perché quel testo che avevo letto all'inizio, a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendono, perché se non si convertono e venga loro perdonato. Questa citazione qua è fatta per rispondere a quel problema lì. Non è che Dio li acceca per non farli vedere, non è quello. È che probabilmente questi avevano un atteggiamento, le persone che non credono hanno un atteggiamento nel quale guardano ma non vedono, ascoltano e non intendono. E quindi non c'è possibilità che si convertano e venga loro perdonato. Ma il punto di partenza è che è come se guardassero ma non vedessero, ascoltassero ma in realtà non sentissero. Ma questo testo riflette proprio quel dramma che anche loro avevano, cioè di dire annunciamo la parola, noi li accogliamo, ma c'è molta gente che non la accoglie. Cioè il mistero del rifiuto era già da allora un problema. Era già da allora un mistero per loro. Infatti si chiama mistero. A voi è stato confiato il mistero del regno di Dio, non perché ci sia qualcosa di misterioso, ma perché quello di fuori è misterioso. Stop. No, no, per carità. Io ho cercato di attenermi all'orario. Se dici tutto adesso, la prossima volta non c'è più quello di Dio. Sì, appunto. Ti ringraziamo, Chiara.